lasciate correre la fantasia. A questo mondo ormai l'unica via che ci permetta di non soffocare sotto la stretta di un vivere normale. Lasciate correre i vostri pensieri, non quelli soliti, quelli leggeri. Un soffio di vento vi porteranno vento di mare, di monti e d'autunno. D'autunno triste, forse ma lieve, d'un triste dolce che non fa soffrire. Un triste dolce come il motivo di una canzone dei tempi in cui vivi e vi sposavano eran solo le mani, era il venire, era solo domani. E il letto un posto che serve a dormire, perché in un prato